24. La storia. Fratelli e sorelle, sono qui per dirvi che accuso l'uomo bianco. Accuso l'uomo bianco di essere il più grande assassino della terra. Accuso l'uomo bianco di essere il più feroce rapinatore della terra. Non vi è luogo in questo mondo dove l'uomo bianco possa andare e dire di aver portato la pace e l'armonia. Lo accuso d'aver perpetrato i più efferati crimini su questa terra. Lo accuso di essere il più violento rapinatore e schiavista della terra. Accuso l'uomo bianco di essere il più vorace mangiatore di carne suina della terra. Il più ubriacone della terra. Egli non può negare le accuse. Voi non potete negare le accuse. Noi siamo la prova vivente di tali accuse. È stato uno dei leader più controversi della storia americana. Lo hanno definito un criminale, un drogato, un iconoclasta, un fanatico dell'Islam, un messia nero, oppure un profeta, il redentore, la voce dei neri in tutto il mondo. La storia che raccontiamo oggi a Mix 24 è quella di Malcolm X, all'anagrafe Malcolm Little, ancora oggi una figura leggendaria. Quando viene ucciso il 21 febbraio del 65 non ha nemmeno 40 anni. La sua vita è la parabola breve di un'icona che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della lotta per la conquista dei diritti civili. Le sue parole sono taglienti come un rasoio e scuotono alle fondamenta la società con le sue convenzioni. Sempre in prima pagina sui quotidiani, i suoi comizi richiamano folle entusiaste, ma provocano anche tensioni e scontri. E il 21 maggio del 64, esattamente 9 mesi prima del suo assassinio, di ritorno dal suo viaggio alla Mecca, Malcolm X pronuncerà un discorso che entrerà nella storia. Dichiariamo il nostro diritto su questa terra, di uomini, di esseri umani, di essere rispettati come esseri umani, di avere i diritti degli esseri umani, in questa società, su questa terra, in questi giorni, e vogliamo portarli nella nostra esistenza con ogni mezzo necessario. È il 21 maggio 1964, mancano 9 mesi alla sua morte. Il leader nero più controverso della storia americana torna da un pellegrinaggio alla Mecca e risponde con queste parole al giornalista che lo intervista. Io sono un musulmano, l'Islam è la mia religione ed è mia intenzione diffondere l'Islam ortodosso tra gli afroamericani e tra la gente di questo tempo, in questo paese, perché crea fratellanza. Lei si rende conto che l'apparente messaggio d'amore che ha ripreso dall'Islam è la vera ragione per cui le danno addosso? Perché non ci odia quanto loro vorrebbero? Io non ho mai odiato nessuno in questo modo. Le parole pronunciate da Malcolm X hanno l'effetto di una bomba. La stampa americana gli dedica titoli a tutta pagina. Il sacerdote dell'orgoglio nero non odia i bianchi, pur avendo molti motivi per odiare la società americana. Malcolm Little nasce il 19 maggio 1925 a Omaha, in Nebraska, ed è un'America dove i neri sono ancora negri. Negli stati del nord, il sogno americano si ferma alla frontiera dei ghetti nelle città. Al sud, la segregazione legale e il linciaggio è un'attività ricreativa. Malcolm X proviene da una famiglia di militanti e ben presto scopre il prezzo della sottomissione. Ce ne parla sua figlia, Malaka Shabazz. Mio nonno fu rapito dalla Legione Nera, un'organizzazione razzista. Lo impiccarono, ma lui spezzò il ramo. Allora lo legarono sulle rotaie perché il treno gli passasse sopra. Ma non morì. Perciò alla fine gli hanno sparato. Quando mia nonna ha chiesto che l'assicurazione pagasse la polizza sulla vita, la compagnia si è rifiutata. Hanno detto che si era suicidato e che l'omicidio andava dimostrato. Naturalmente nel Michigan degli anni 30 una cosa del genere a un bianco non sarebbe mai accaduta. Mia nonna ebbe un esaurimento nervoso. Lo Stato la fece rinchiudere in un manicomio e le tolse i figli. Uno di loro era mio padre. Già dalla sua adolescenza, Malcolm è un ribelle, un delinquente. Si dà alla droga e al gioco d'azzardo. Nel 1946 viene condannato a 8 anni di carcere per furto con scasso. In prigione è attratto da un gruppo afroamericano noto come la Nazione dell'Islam, la cui ideologia è un insieme di precetti musulmani e di misticismo popolare. Il leader, Elijah Muhammad, si proclama un messaggero di Allah. Il regno dei cieli è vicino e il demone bianco tornerà all'oblio, mentre l'uomo nero, un essere superiore, governerà il mondo. Ce ne parla il segretario di Malcolm X, Abdur Razak. Mohammed proclamava che la maggior parte della Bibbia non è storia, ma profezia. Insomma, erano solo visioni dei profeti. Malcolm accettò quel concetto di religione. Vedeva anche se stesso come un profeta, come Paolo, e vedeva Mohammed come Gesù. E questo gli ha dato una forza e una sicurezza che una persona normale non avrebbe avuto. Malcolm viaggia per tutta l'America, predicando il suo Vangelo e creando la sua organizzazione. Nel 1950, l'arrivo di Malcolm Little, che ora si fa chiamare Malcolm X, a Chicago, non passa inosservato per le organizzazioni per i diritti civili che hanno in Martin Luther King il loro leader. Ma per Malcolm X, Martin Luther King ha venduto l'anima all'establishment bianco. Malcolm X vuole cambiare il mondo, mentre Martin Luther King parla di non violenza. Malcolm X sostiene l'autodifesa, mentre Luther King sogna l'uguaglianza e l'integrazione nella società bianca. Malcolm X promuove l'indipendenza politica e economica. Il portavoce delle Nazioni dell'Islam propone la completa segregazione razziale e la creazione di uno Stato indipendente nero. Nei ghetti, Malcolm X diventa il portavoce della vendetta. L'onorevole Elijah Muhammad ci insegna che Dio è ora in procinto di creare un regno basato sulla fratellanza e la pace. E l'uomo bianco è contro la fratellanza e contro la pace. E la sua storia su questa terra lo ha dimostrato. La sua storia dice che non è stato mai fraterno con nessuno. L'unica volta che si dimostra fraterno nei vostri confronti è quando vuole sfruttarvi, opprimervi e sottomettervi. La sua storia dimostra che non è qualificato per vivere in un regno di fratellanza. L'onorevole Elijah Muhammad ci insegna che Dio sta per sradicare quella particolare razza dalla terra. Era il discorso di Malcolm X a Cleveland il 3 aprile 1964. E la poetessa Sonia Sanchez tenta di avvicinare il leader. Ero nelle organizzazioni per i diritti civili. La prima volta che abbiamo sentito parlare Malcolm abbiamo detto: ma questo è un razzista. Dissi: ora vado su a dirgli qualcosa. Per fortuna sono bassa e riuscii a fendere la folla. Sono passata attraverso le sue guardie del corpo e l'ho toccato sulla schiena. Gli ho detto: signor X, io non sono d'accordo con la maggior parte delle cose che ha detto. Su alcune sono d'accordo, ma sulla maggior parte no. E lui mi guardò con quegli occhi incredibili che trafiggevano il cervello, che trafiggevano gli occhi, che trafiggevano il cuore, e disse: un giorno lo sarai, sorella. Con la storia di Malcolm X riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Negli anni 50 il carisma di questo giovane di colore, alto 1,91 m, magro, con una presenza fisica straordinaria, affascina le folle dei sobborghi americani dove vivono i neri. Malcolm Little rinnega il suo nome come segno di emancipazione dai bianchi e si fa chiamare Malcolm X. Nel 52 l'FBI apre un fascicolo su di lui. L'America bianca presto dà un volto alla voce ribelle dei ghetti. Ascoltiamolo in un discorso a Chicago. Qual è il suo vero nome? Malcolm. Malcolm X. È il suo vero nome? Per quanto mi riguarda, è il mio vero nome. Le spiace dirmi qual era il cognome di suo padre? Mio padre non conosceva il suo cognome. Mio padre ha ricevuto il suo cognome da suo nonno, e suo nonno da suo nonno, che lo ha ricevuto dal capo degli schiavi. I veri nomi del nostro popolo sono stati cancellati durante la schiavitù. Nel maggio del 1964, di ritorno dalla Mecca, Malcolm X adotta un nuovo punto di vista, una nuova visione del mondo e della relazione tra le razze, molto lontana da quella della nazione dell'Islam. È la svolta, ce ne parla la figlia. A poco mio padre vide il vero Islam. Asiatici, europei, africani seduti tutti insieme. un contesto in cui lui avrebbe potuto stare con quelle persone senza risentimenti. Fece il suo Hajj e cambiò la sua vita, completamente. Aveva visto cos'era il mondo e aveva capito che non era solo una questione di diritti civili tra bianchi e neri in America. La posta in gioco erano i diritti umani. Ma davvero Malcolm X ha avuto una rivelazione? Oppure solo la nuova strategia di un leader astuto? Ce ne parla Peter Bailey, collaboratore di Malcolm X. Fratello Malcolm non era un idiota. Sapeva che un mondo di soli neri non avrebbe mai funzionato. Sapeva che per ottenere un determinato obiettivo occorre formare alleanze con determinate persone. Non credo che fratello Malcolm sarebbe mai cambiato al punto da considerare i bianchi come persone di cui fidarsi. Alleanze e fiducia è quello di cui ha bisogno Malcolm X. Rientrato negli Stati Uniti, si trova isolato. Decide allora di creare una nuova rete per influenzare e sviluppare il nuovo movimento. Nasce così l'Organizzazione per l'Unità Afroamericana. A parlarcene è Sheikh Omar, amico di Malcolm X. Dopo la conferenza stampa, Malcolm e Abdul Razzak andarono in centro e presero un ufficio all'Hotel Teresa. L'ufficio era proprio qui, al secondo piano. Nel suo comunicato stampa, Malcolm X disse che la soluzione dell'onorevole Elijah Muhammad, uno stato indipendente, era la migliore per gli afroamericani, ma lui restava pronto a lavorare sempre e comunque con chiunque avesse voluto collaborare con lui. Malcolm trova il sostegno dei paesi africani che hanno ottenuto da poco l'indipendenza. Il suo scopo è unire tutti i popoli neri dell'Africa e dell'America contro l'oppressione occidentale. Ascoltiamolo in un discorso a Memphis il 25 marzo del 63. Si dice che il blocco più potente delle Nazioni Unite sia il blocco afroasiatico. Sono le nazioni più povere, eppure sono quelle che hanno più peso nel contesto politico delle nazioni che hanno molti soldi. Perché non importa quanto ricchi siano gli Stati Uniti, alla fine valgono un solo voto. Ecco perché noi tutti dobbiamo ricordarlo e sapere che il voto è potente quanto un proiettile, o perlomeno che sono entrambi importanti. E se non si usa il voto, allora si deve usare il proiettile. La fama di Malcolm X si estende presto oltre gli Stati Uniti. Ironia della sorte, l'isolato e indipendente Malcolm X diventa ancora più pericoloso per i suoi nemici e nel giro di 2 mesi rompe il rapporto con la nazione dell'Islam. Los Angeles, 26 aprile 1962. Ronald Stokes, seguace della Nazione dell'Islam, viene ucciso ad un posto di blocco della polizia. Gli sparano quando ha le mani alzate. Contro tutte le procedure, l'omicidio fa scalpore. Molti temono un'escalation di scontri e violenze. Fedele ai suoi principi, Malcolm X si reca sul posto e avverte le forze dell'ordine. Ascoltiamolo. Noi non approviamo la filosofia di Martin Luther King di porgere l'altra guancia. Noi non abbiamo nessuna intenzione di porgere l'altra guancia a nessuno. E bisogna che si sappia che ogni volta che questi fratelli sono attaccati, sapendo di essere nel loro diritto, hanno il diritto anche di rivalersi per quanto loro possibile e con l'aiuto del nostro Dio. La Nazione dell'Islam pubblica solo una semplice protesta e smentisce il proprio portavoce. Malcolm X può solo minacciare vendetta. Per il momento non gli resta che porgere l'altra guancia. Dentro la Nazione dell'Islam, la sua crescente popolarità preoccupa molti. Ce ne parla ancora la figlia, Malak Shabazz. Mio padre predicava, ripeteva le parole di Elijah Muhammad, ma se si guarda bene, Elijah Muhammad era un uomo debole. Le sue parole erano molto faticose. Aveva l'asma, era malato, aveva bisogno di un altoparlante. Mio padre, invece, parlava bene. Era bello, carismatico. Malcolm X eccitava le donne. Non mi stupirei se, vedendolo, qualcuna avesse avuto un orgasmo. Chi lo ha visto dal vivo sa quello che voglio dire. E credo che anche Malcolm ne fosse consapevole. Questo per dire quanto era carismatico. Yash Gavronsky, giornalista e autore di A cena dal Papa e altre storie, libro in uscita in questi giorni. Tra i tanti personaggi famosi che ha intervistato c'è Malcolm X. Cosa ti ha colpito di più di lui? Beh, il suo fascino, malgrado fosse molto scontroso, molto direi quasi ineducato, mi ha fatto aspettare molto, non ha mai chiesto scusa, cioè non faceva nulla per piacere, per compiacere il suo interlocutore. Yash Gavronsky, ma è stato difficile ottenere questa intervista? Beh sì, direi piuttosto difficile, perché lui era, come si sa, un razzista all'incontrario, cioè considerava che i bianchi potevano, diciamo, incrinare la razza nera, erano moralmente molto inferiori e potevano contaminarla, quindi era molto difficile. E come hai fatto? Gliel'ho chiesto, ho insistito, avevo degli amici neri che erano suoi amici che mi hanno aiutato. Dove l'ha intervistato? Ad Harlem. Lui aveva una specie di ristorante, una tavola calda, chiamiamola piuttosto, dove veniva quando stava a New York, lo considerava un po' un suo ufficio, tant'è che c'era una cabina telefonica vicino. Allora parliamo di 50 anni fa, non c'erano ancora i telefonini, lui ha passato buona parte della nostra intervista parlando al telefono da questa cabina e eravamo seduti sotto a un tavolo che era sempre il suo tavolo, e sopra questo tavolo c'era la fotografia di Elijah Muhammad, che era il capo, era come il presidente di una società, non era il capo attivo, era il capo ispiratore, il capo guida, perché il vero attore, il vero motore dei musulmani neri era Malcolm X. Quando l'onorevole Elijah Muhammad si è ammalato nel 1962 e tutti pensavano che stesse per morire, i giornali hanno ipotizzato che Malcolm sarebbe stato il suo logico successore. E a quel punto la famiglia dell'Islam ha detto: aspettate un momento, noi abbiamo investito molto per arrivare fin qui, perderemo la nostra vacca da mungere. L'onorevole Muhammad guardava Malcolm come il suo settimo figlio e loro hanno fatto tutto il possibile per porre fine a questa cosa. Poi c'è Dallas. L'omicidio di Kennedy il 22 novembre del 63 potrebbe sanare il contrasto, ma Eliad Muhammad proibisce ai discepoli qualunque commento pubblico sull'assassinio di Kennedy. Il messaggero ha paura di offendere una parte consistente della comunità nera che ha sostenuto il candidato democratico alle presidenziali di 3 anni prima. Malcolm X va per la sua strada e ancora una volta conquista le prime pagine dei giornali, ma è una volta di troppo. Un giornalista gli chiese: che cosa pensa dell'assassinio del presidente Kennedy? E Malcolm, come se niente fosse, rispose: questo assassinio conferma che chi la fa l'aspetti. A me, quando questo capita, fa sempre piacere. Chi la fa l'aspetti mi rende felice. Queste furono le sue parole esatte. Io ero lì, ufficiavo al Manhattan Center, e ho detto: questi giornalisti non li vogliamo, li dobbiamo mandare fuori. E lui: non mandarli fuori, ma non lasciare che tutti gli altri entrino. Ecco un classico esempio di come la propaganda bianca ha distorto le sue dichiarazioni. La loro interpretazione è stata: lo vedete? Lui odia tutti i bianchi ed è felice che il presidente sia morto. Ma non era affatto quello che lui intendeva. Lui intendeva dire: qui stiamo parlando di una persona che opprime tutto il mondo, che opprime gli indigeni, sottraendo loro tutte le risorse, scatenando guerre, decidendo a chi andranno le medicine e a chi no. E questo gli si è ritorto contro e lo ha morso sul culo. Era la voce della figlia di Malcolm X. La risposta della Nazione dell'Islam non tarda ad arrivare. 2 settimane più tardi, infatti, Malcolm X viene interdetto dal tenere comizi. Tutti pensavano che Malcolm sarebbe stato fuori per 90 giorni e che poi sarebbe tornato. Ma prima che i 90 giorni scadessero, i fratelli dell'Islam cominciarono a dire: non chiamatelo Malcolm, chiamatelo compagno. Lui non è mai stato a fianco del messaggero, dovrebbe essere ucciso. Io dissi: ucciso? Ma questo è inaccettabile. Allora ho rintracciato Malcolm e gli ho detto tutto. E lui, ridendo, mi ha detto: nessuno mi ucciderà, io non sono un musulmano della domenica, ho dato 12 anni della mia vita a questa organizzazione. E io: guarda che le voci sul tuo assassino sono sempre più insistenti. E la La voce si sparge nelle moschee della nazione dell'Islam. In quel periodo si comincia a dire che il nome di Malcolm non deve essere pronunciato. E poi cominciò tutto. Le minacce di morte, le telefonate anonime nel cuore della notte. Ti ucciderò. Vedrai, faremo saltare in aria la tua casa. Ma l'FBI e i servizi segreti erano molto riluttanti nel fornirgli protezione. Era la figlia di Malcolm X. La tensione tra i sostenitori di Malcolm X e la nazione dell'Islam è ormai sempre più acuta. Malcolm X passa al contrattacco l'8 marzo del 64. Lascia ufficialmente l'organizzazione. Poche settimane dopo accusa il messaggero di Dio, Iyad Mohammed, di essere adultero. Lo spiega in questa intervista all'emittente ABC dell'aprile del 64. Hanno paura che io dica il vero motivo per cui sono fuori dal movimento musulmano nero. Finora l'ho tenuto per me. Ma la vera ragione è che Elijah Muhammad, il capo del movimento, è il padre di 8 figli da 6 diverse ragazze adolescenti, che erano le sue segretarie private. La verità è che Malcolm sapeva di quelle ragazze. Quelle ragazze non avevano niente a che fare con l'allontanamento di Malcolm. Anche io sapevo di quelle ragazze. Erano voci che circolavano già dal 1958. E una di quelle ragazze, anzi, almeno due di quelle ragazze, sono state anche ex fidanzate di Malcolm. Di sicuro Evelyn era stata la sua fidanzata. Perciò Malcolm sapeva perfettamente di questa storia. Il motivo per cui queste ragazze sono diventate un problema è che Malcolm aveva bisogno di qualcosa a cui attaccarsi. L'entourage di Elijah Mohammed reagisce imbarazzato e sdegnato. Lo scandalo rischia di allargarsi. Malcolm X deve essere messo a tacere. Malcolm X ormai è un bersaglio mobile. Nel luglio del 64, 8 mesi prima della morte, durante una visita al Cairo come rappresentante dell'Organizzazione per l'Unità Afroamericana, è vittima di un attentato. Volevano creare una divisione, alimentare l'odio tra gli afroamericani e i paesi islamici. Non hanno mai trovato il cameriere che gli portò il cibo. Più tardi risultò che aveva assunto una quantità di veleno sufficiente a uccidere 10 uomini. Lui sopravvisse, ma era decisamente indebolito. Su Mix 24, con la storia di Malcolm X, riprendiamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24 e alla storia di Malcolm X. Il tentato omicidio del Cairo resta ancora oggi un mistero. Oltre alla nazione dell'Islam, chi altro voleva vedere morto Malcolm X? 6 mesi più tardi, un altro episodio inquietante si verifica durante un viaggio a Parigi. È il 9 febbraio del 65, quando Malcolm X scende dall'aereo, gli viene negato il visto per la Francia. Parigi ha subito pressione da Washington? Oppure la Francia è stata informata della possibilità di un attentato e non vuole che si verifichi a Parigi? O ancora il capo della polizia che non vuole tra i piedi un agitatore afroamericano? L'episodio suscita molte polemiche alla luce di quanto accadrà di lì a pochi mesi. Herman Ferguson, amico e collaboratore di Malcolm X, racconta delle preoccupazioni di quei giorni. Quando tornò dal suo viaggio, molti di noi andarono ad accoglierlo all'aeroporto Kennedy. E mentre tornavamo con lui in città, in macchina ci disse qualcosa di molto strano. Ci disse: ho capito che ho fatto un errore. Ho capito che i miei guai non vengono da Chicago. Gli abbiamo chiesto: e allora da dove vengono i tuoi problemi? Indicò verso sud e disse: da Washington. Convinto della presenza di un complotto per uccidere tutti i leader neri dei movimenti per i diritti civili, Malcolm X rilascia numerose dichiarazioni che suggeriscono un'apertura verso altri protagonisti di quella stagione, a cominciare dal suo ex nemico Martin Luther King. Ascoltiamo Manny Marable, professore alla Columbia. L'incontro tra Martin Luther King e Malcolm X fu un incubo per l'FBI. Nel 1962 il capo dell'FBI, J. Edgar Hoover, scrisse un memorandum terribile dal titolo Il Messia Nero. Hoover in sostanza affermava che bisognava fermare ad ogni costo l'ascesa di un messia nero che avrebbe potuto unire tutte le persone di colore negli Stati Uniti. Selma, Alabama, febbraio del 65, mancano 3 settimane alla morte di Malcolm X. Martin Luther King ha deciso di organizzare una lunga marcia per i diritti civili in uno Stato dove vige ancora la segregazione razziale. Come dichiara, intervistato nel febbraio del 65. Beh, la nostra presenza qui a Selma serve a realizzare una cosa molto semplice, ma molto importante, e cioè ottenere il diritto di voto per i neri. Vi ordino di disperdervi o sarò costretto ad arrestarvi. Resteremo qui fino al momento in cui saremo allontanati. Vi ordino di disperdervi. Da un'istanza del giudice Thomas. La tensione degenera in uno scontro. La polizia arresta il reverendo King, ma ancora una volta è Malcolm X a fare notizia quando arriva a Selma per sostenere Martin Luther King e la sua marcia. Ce ne parlano Manning Marable e Maxwell Stanford. Malcolm va da Coretta Scott King e le dice: io non sono qui per creare altri problemi, sono qui per dare supporto a tuo marito. Io rispetto molto Martin Luther King e voglio che sappiate tutti che il mio ruolo è essere ancora più a sinistra di questo movimento per spaventare l'America bianca e costringerla a negoziare con il dottor King. Josh Gavronsky, ma com'era il rapporto tra Malcolm X e Luther King all'epoca della tua intervista? Beh, erano all'opposto. Nell'intervista Malcolm X lo dice. Insomma, l'idea che si potesse cercare un accordo con i bianchi per convivere, che era l'idea base della teoria, della filosofia di Martin Luther King, per lui era assurda, era da condannare assolutamente. Lui diceva: non possiamo metterci, dice, ci accusano di essere violenti, ma noi non siamo violenti. Il fatto di reagire perché ci uccidono, ci lanciano, la polizia ci lancia i cani contro e dobbiamo difenderci dai morsi dei cani, dice, noi non siamo di quelli che offrono l'altra guancia. Cioè è una critica totale alla teoria, alla filosofia e al comportamento di Martin Luther King. Però cambia idea. Quando è che cambia idea e perché? Non so se si possa dire che cambia idea. Diventa, diciamo, un po' meno rigido, meno intransigente nei confronti di Malcolm X. Non credo che cambi idea proprio sul problema del razzismo. Cioè lui rimane sempre dell'idea che i bianchi possono contaminare la razza nera, però diventa un po' più accondiscendente nei confronti proprio della persona di Martin Luther King. E perché? Ma forse perché capisce che anche da quella parte, anche con quella filosofia, con quel modo di agire, la causa sua poteva avvalersene. Malcolm e Martin Luther King avevano avuto un colloquio di 2 ore al telefono. Io so per certo che il dottor King aveva mandato il suo avvocato all'incontro che Malcolm aveva organizzato per far sì che gli Stati Uniti fossero accusati dall'ONU di genocidio contro gli afroamericani. Casa Bianca, ritrovarsi accusata di genocidio in piena guerra fredda sarebbe una catastrofe d'immagine. Ma Malcolm X, grazie ai suoi rapporti con gli stati africani, va oltre e organizza un secondo fronte diplomatico. 14 febbraio 1965, alle 2 del mattino, alcuni sconosciuti lanciano 2 bombe Molotov contro la casa di Malcolm X. I sospetti cadono subito sulla Nazione dell'Islam, l'organizzazione che da mesi dichiara che quella casa appartiene a loro. L'indagine sull'attentato passa in secondo piano, ma una settimana più tardi Malcolm X è morto. Muriel Feelings, amica di Malcolm X, descrive così gli ultimi giorni. Era davvero arrabbiato. Espresse dei giudizi estremamente pesanti sulla nazione dell'Islam. Era convinto che fossero stati dei seguaci della nazione ad attaccare la sua casa. Lui fu costretto ad abbandonarla di gran corsa. La moglie lo fece salutare dai bambini in mutande, attraverso la finestra. Era abbastanza ovvio che la sua vita fosse in pericolo. Era un essere umano, lo sentiva nell'aria. E c'era anche la preoccupazione per la moglie e i figli, ai quali non aveva nulla da lasciare. Quando lo avevano espulso dalla nazione, lo avevano spogliato di tutto. È il 21 febbraio 1965. Come ogni domenica pomeriggio, Malcolm X si reca all'Audubon Ballroom per il suo comizio. Poco prima delle 3 sale i gradini del podio. Così il racconto degli amici. Malcolm aveva una frase in codice per indicare quando era pronto a salire sul podio. Diceva facciamola facile. Ogni volta che diceva facciamola facile, voleva dire che era pronto a salire sul palco o sul podio. Voleva intendere che bisognava semplificare. E Benjamin disse: ora è il momento di presentarvi un fratello pronto a dare la vita per voi, tanto ama il suo popolo. Signori, ecco a voi il ministro Malcolm X. Malcolm X viene colpito in pieno petto. Il corpo del leader nero viene crivellato con 16 colpi al cuore e al collo. Dopo che la situazione si fu calmata, salì sul palco e Betty era accanto a lui, era in ginocchio su di lui. Lei era un'infermiera. Accanto a lei c'erano anche altre persone. Lei stava cercando di fargli la respirazione bocca a bocca o qualcosa del genere. E lei ha detto solo: oh, Muriel se n'è andato e io sono incinta. In sala il caos. Ne vorrebbero approfittare gli assassini per scappare. Ma una delle guardie del corpo di Malcolm X ha già l'arma in pugno e colpisce uno dei 3 uomini in fuga. Solo l'arrivo della polizia lo salva dai linciaggi. Verrà identificato come Thomas Hagen. È un discepolo della Nazione dell'Islam. Così racconta l'amico di Malcolm X, Sheikh Omar, e poi ancora la figlia. I dottori non arrivavano mai, anche se erano lì vicino, ed erano proprio dall'altro lato della strada. I medici sarebbero potuti accorrere subito. La verità è che non vollero intervenire. Abbiamo dovuto mandare altre persone a prendere la barella. Abbiamo dovuto mettere noi Malcolm sulla barella. Lo abbiamo portato giù e siamo stati noi a portarlo dall'altra parte della strada al posto di pronto soccorso. L'ironia è che i 2 uomini che hanno preso la barella sono stati arrestati per furto di proprietà dell'ospedale. Pazzesco. Ho acceso la radio e lo speaker ha detto che avevano sparato a Malcolm X e che lui era morto. Ma lo ha detto in un modo così pieno di disprezzo. Mi sono messa a urlare. Ho gettato a terra il mio caffè e mi sono buttata sul divano a singhiozzare. Perché se c'era uno che aveva parlato di noi stessi, di ciò che significa essere neri, di quello che doveva essere un essere umano, io tramite Malcolm ho capito cosa significasse essere umani. Il giorno dopo, il 22 febbraio, la moschea numero 7 viene data alle fiamme. Alcune voci che circolano dicono che l'FBI stia aizzando la faida tra i 2 clan. Mentre si moltiplicano le ipotesi di complotto, ci si continua a domandare chi abbia ucciso Malcolm X. Ripartiamo da qui, dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Con l'arresto di Thomas Hagen non sussiste dubbio sul coinvolgimento della Nazione dell'Islam, ma una serie di episodi inquietanti sollevano nuovi interrogativi. Sentiamo Manning Marable, professore alla Columbia. La polizia di New York ha ovviamente tenuto d'occhio tutti i vari comizi di Malcolm X alla Audubon Ballroom nella parte alta di Manhattan. Ogni volta c'erano più di 20 agenti. Quel giorno, invece, al raduno erano stati assegnati soltanto 2 agenti. fu ordinato loro di rimanere nella piccola sala da ballo rosa, il più lontano possibile dalla sala Audubon, dove poi è stato ucciso. La guardia del corpo di Malcolm X inoltre sostiene di aver colpito non uno ma due degli assassini. A parte Thomas Hagan, fuggito a stento al linciaggio, c'era un secondo uomo che però è riuscito a fuggire. Tra i testimoni oculari c'è Herman Ferguson, che si trova appena fuori dalla Audubon Ballroom. Questa gente ha iniziato a camminare verso di me. Stava aiutando un uomo che indossava un cappotto e anche un fez. Lo condusse alla macchina, gli ha aperto lo sportello e lo ha fatto sedere sul sedile posteriore. L'uomo era piegato su se stesso, come dal dolore. Chissà, forse aveva una ferita allo stomaco. Ho sentito che la gente diceva all'autista: andiamocene via da qui. E mi aspettavo che la polizia attraversasse la strada per portare questo tizio in ospedale. L'autista invece ha imboccato la 166esima strada e quella macchina non l'ho più vista. Questo ricordo mi sconcerta ancora oggi. Non esiste prova che l'FBI abbia avuto un ruolo attivo nella morte di Malcolm X. L'indagine viene chiusa poche settimane più tardi con l'arresto di Norman Butler e Thomas Johnson, membri della Nazione dell'Islam e già noti alla polizia per reati minori. Norman Butler e Thomas Johnson erano troppo riconoscibili. Nel 1962-63 Johnson consegnava generi alimentari una volta al mese da Betty Shabazz e a casa di Malcolm X. Letteralmente era l'autista di Malcolm. Le persone, gente del suo entourage, lo avrebbero riconosciuto subito all'ingresso principale. Non lo avrebbero mai fatto entrare nella sala Audubon. Nella sua deposizione, Hagan ha dichiarato che Butler e Johnson non erano coinvolti nell'omicidio, ma non è stato creduto. Nel 1966 i due uomini sono stati condannati a 20 anni di carcere, Hagan invece all'ergastolo. Una settimana dopo l'assassinio di Malcolm X, più di 20.000 persone hanno reso l'ultimo silenzioso omaggio alla sua memoria. L'intera Harlem ha intonato la sua canzone. Il 27 febbraio del 65 il suo corpo è stato condotto al cimitero di Hartsdale nel Queens. 1.500 persone hanno seguito il corteo sorvegliato a vista dall'FBI e dalla polizia di New York. Josh Gavronsky, ma secondo te alla fine qual è stata la causa della morte di Malcolm X? Beh, lui lo dice, ma insomma lo fa capire. Questi suoi atteggiamenti, prima troppo drastico nei confronti dei bianchi, poi soprattutto sul finire questo cedimento nei confronti delle teorie più benevoli di Martin Luther King, è quello che probabilmente ha fatto decidere all'ala estrema dei musulmani neri di eliminarlo, perché pensavano che sarebbe stata una deriva verso addirittura arrivare a un accordo finale con i bianchi, cioè ricascare o cascare sulle posizioni di Martin Luther King. Josh Gavronsky, questa è solo una delle interviste del tuo libro A cena dal Papa e altre storie. Poi c'è quella famosa Giovanni Paolo II, riproposta qui in questo libro in versione integrale. Perché? Cosa non avevi potuto scrivere all'epoca? Ci sono dei piccoli episodi, ci sono dei giudizi. Un esempio. Per esempio su Genscher, l'ex ministro degli esteri tedesco, che parlando col Papa gli ha detto il muro di Berlino, il famoso muro, auspicava quasi che il muro rimanesse, perché aveva capito che col crollo del muro sì, il comunismo finiva, però cominciavano dei problemi seri per chi stava da questa parte del muro, perché ci sarebbe stata un'invasione di gente che aveva bisogno di tutto. E ovviamente questo era abbastanza scomodo dirlo all'epoca. Esatto, soprattutto finché Genscher era vivo e finché il Papa era vivo. E di Fidel Castro, la cosa che ti ha colpito di più? Beh, mi ha colpito molto lui perché l'ho trovato intelligente, sveglio, molto più pro-americano di quanto sospettassi. In che senso pro-americano? Nel senso che mi ha parlato stato bene sia degli Stati Uniti come paese, sia degli americani, sia di molti presidenti americani, a cominciare da Lincoln, da Roosevelt, di Kennedy. Mi ha detto povero Kennedy, è mal consigliato, cioè non era affatto polemico. Poi trovo che Castro non è il dittatore tipico sudamericano, insomma è certamente uno che non ha un conto in Svizzera, non ha messo da parte dei soldi, ed è, se si pensa che lui ha governato un'isola di 8 milioni di abitanti, una piccola isola che ha condizionato gli Stati Uniti per 50 anni in opposizione, ha condizionato l'evoluzione di tutto il continente sudamericano, pensiamo a Che Guevara, pensiamo alla teoria della teologia della liberazione, quindi un grosso personaggio. Tra l'altro, parlando con lui, ho parlato 6 ore, due volte tre ore, mi sono convinto che in buona fede, cioè lui è convinto di fare il bene di Cuba, sì, cosa che in parte ha fatto, perché ha fatto anche del bene, poi certamente ha fatto anche molto, ma anche del male. Sì, ma l'America per Cuba e Fidel Castro erano il nemico numero uno, com'è possibile che parlava bene degli americani? Parlava direi quasi con un certo distacco, con una certa, non voglio dire superiorità, ma insomma trovo che per qualcuno che era in guerra, possiamo dire, con gli Stati Uniti per 50 anni, il parlarne in quella maniera dimostrava una certa classe, una certa nobiltà di sentimenti e di intelligenza anche. Yosh Gavronsky, hai viaggiato in tutto il mondo, anche nei paesi più sconosciuti in ogni continente, ma alla fine qual è la cosa più importante che hai imparato? Beh, lo dico un po' nella fine della mia introduzione del libro. Io scrivo, ne ho tratto la lezione di un unico principio, credo e spero molto liberale. Il principio qual è? Nessuno pensi di avere la ricetta perfetta e giusta per il bene degli altri, cioè ognuno si deve occupare del proprio giardino, del proprio seminato, e non esprimere giudizi sugli altri.